Rivoluzione e sentito del momento storico. Alla fine Fidel Castro abbandona il potere e rinuncia alla presidenza del Consiglio di Stato e al ruolo di comandante in capo. 49 anni dopo la rivoluzione contro la dittatura di Battista, 47 anni dalla crisi dei missili russi della Baia dei Porci, 10 anni dalla visita di Giovanni Paolo II a Cuba. È una svolta. Castro ha creato una dittatura, ma senza spargimento di sangue. Ma i cubani vengono informati da un solo quotidiano, Granma, dalla orwelliana Radio Reloc, da un canale televisivo che trasmette anche le più piccole riunioni del Partito Comunista nella zona di Pinar del Rio. E le galere sono piene di oppositori, non solo quelli che fanno riferimento alla comunità cubana di Miami. La polizia di Castro ha incarcerato giornalisti, scrittori, registi, attori, singoli cittadini che chiedevano riforme pur restando ancorati alle idee socialiste. Castro più volte ha detto che il suo popolo non era pronto alle riforme e che gli oppositori erano agenti americani complici dell'embargo economico. Ma a Cuba i soldi girano, come gli enormi investimenti del settore turistico, ma non entrano nelle tasche dei cubani. La paga di un operaio specializzato, $100 al mese, $120 per un insegnante, $150 per un ricercatore. I talenti migliori fuggono all'estero. Ora il potere passa al fratello Raul. L'unico modo per effettuare il cambio è scacciare gli oppositori, favorire la creazione di nuovi partiti, giornali, strumenti di comunicazione, indire elezioni. Ma Raul è uomo di apparato, per certi versi peggiore di Fidel, e il futuro di Cuba non pare roseo.